La prima domenica di novembre Norman Douglas mise di nuovo piede in chiesa e suscitò tutto lo scalpore che bramava. Il signor Meredith gli strinse la mano distrattamente sui gradini d'ingresso e gli disse con aria trasognata che sperava che la signora Douglas stesse bene. «Non stava benissimo prima che la seppellissi 10 anni fa, ma immagino che ora stia molto meglio, tuo nonno Norman, suscitando orrore e ilarità in tutti i presenti, fatta eccezione per il signor Meredith, il quale, intento a domandarsi se l'ultima parte del sermone fosse chiara come lui voleva, non aveva la più pallida idea di cosa avesse detto Norman, e tantomeno di cosa gli avesse detto lui poco prima. All'uscita, Norman intercettò Faith. «Ho mantenuto la mia parola, hai visto, Rose? Adesso sono libero fino alla prima domenica di dicembre. Bel sermone, ragazzina, bel sermone. Tuo padre ha in testa molto più di quello che lascia intuire. Però in un caso si è contraddetto, diglielo che si è contraddetto. E digli che a dicembre voglio un sermone sulle fiamme dell'inferno. Un assaggio di inferno mi sembra un ottimo modo per salutare l'anno che se ne va. E che ne dici di un bel discorsetto sul paradiso all'inizio dell'anno nuovo? Anche se di sicuro non sarà mai interessante quanto quello sull'inferno, ragazzina, proprio per niente. È che vorrei sapere che ne pensa tuo padre del paradiso. Mi pare un uomo che sa pensare, ed è una cosa rara a questo mondo, una persona che sa pensare. Però si è contraddetto. Ah, senti qua una domanda che puoi fargli quando lo trovi sveglio, ragazzina. Dio può creare un masso così grande che neppure lui può sollevare? Non te la dimenticare, eh? Voglio sapere che cosa ha da dire. Ho messo in difficoltà un sacco di pastori con questa domanda, ragazzina. Faith fu piuttosto sollevata quando finalmente riuscì a sfuggirgli e a tornare a casa. Dan rise in piedi in mezzo a un gruppetto di ragazzi al cancello, la guardò e disse a fior di labbra: «Ragazza maiale!» Ma non osò ripeterlo ad alta voce sui gradini della chiesa. Tuttavia, il giorno dopo a scuola, le cose andarono diversamente. Durante la pausa pranzo, Faith incontrò Dan nella piccola bettaia dietro l'edificio e lui glielo gridò di nuovo: ragazza maiale, la ragazza del galletto!» Tutto a un tratto, Walter Blythe si alzò dal tappeto di muschio dietro un gruppetto di alberi dove stava leggendo. Era pallidissimo, ma con gli occhi ardenti. «Chiudi il becco, Dan Reese!» disse. «Oh, salve, signorina Walter!» rispose Dan senza scomporsi. Volteggiò agile sopra la staccionata e prese a cantilenare: «Codardo pasticcione, che ruba il ciambellone, codardo pasticcione!» «Sei una coincidenza!» disse Walter furioso, diventando ancora più pallido. Aveva solo una vaghissima idea di cosa fosse una coincidenza, ma Dan lo ignorava completamente e pensò che dovesse essere qualcosa di particolarmente orripilante. «Codardo! Codardo!» esclamò di nuovo. «Tua madre scrive balle, balle, balle! E Faith Meredith è la ragazza maiale, maiale, maiale! E anche la ragazza galletto, galletto, galletto! Sì, codardo pasticcione che...» Dan non ebbe modo di proseguire. Walter si lanciò in avanti e lo buttò giù dalla staccionata con un sol colpo ben assestato. L'improvvisa e ingloriosa caduta di Dan fu accolta da una sonora risata e dal battimani di Faith. Dan si rimise in piedi, paonazzo di rabbia, e fece per scavalcare la staccionata, ma proprio in quel momento suonò la campanella e lui sapeva bene che fine facevano i ragazzi che arrivavano in ritardo sotto il regime del signor Hazard. «La risolveremo a botte!» ululò quindi. «Codardo!» «Quando vuoi!» disse Walter. «Oh no, no, Walter!» protestò Faith. «Non fare a botte con lui! Non mi importa quello che dice, non perdo tempo a badare a quelli come lui!» «Ha insultato te e ha insultato mia madre!» disse Walter con una calma minacciosa. «Oggi pomeriggio, dopo la scuola, Dan!» «Dopo la scuola devo andare subito a casa per raccogliere le patate, dopo che è passato l'aratro. Me l'ha detto mio padre», rispose Dan scortese. «Ma domani pomeriggio andrà bene». «Va bene. Allora ci vediamo qui domani pomeriggio», rispose Walter. «Gonfierò di botte il tuo faccino da femminuccia», promise Dan. Walter rabbrividì, non tanto per paura di quella minaccia, quanto per il senso di orrore e di volgarità che gli suscitava tutta la situazione, ma tenne alta la testa e rientrò a scuola. Faith li seguì in preda a emozioni contrastanti. Detestava il pensiero di Walter che faceva a botte con quella piccola serpe, ma era stato davvero meraviglioso. E ora si sarebbe battuto per lei, Faith Meredith, per punire chi aveva osato insultarla. E ovviamente avrebbe vinto, glielo leggeva negli occhi. La fiducia di Faith nel suo campione si affievolì un po' nel corso del pomeriggio, Per tutto il resto della giornata di scuola Walter le era parso tranquillo e pacato. Se solo fosse Jem, sospirò rivolta a una mentre sedevano insieme sulla tomba di Ezekiah Pollock al cimitero. Lui sì che sa fare a botte, darebbe una lezione a Danny in un battibaleno. Walter invece non sa proprio come si fa. Ho paura che si farà male, sospirò a sua volta una che detestava le liti e non riusciva a capire il motivo del sottile e nascosto senso di esultanza che percepiva in Faith. Non per forza, disse lei a disagio, è alto quanto Dan. Ma Dan è molto più grande, disse una, ha quasi un anno più di lui. A dirla tutta non mi pare che abbia fatto a botte così spesso, disse Faith. Secondo me il codardo è lui. Non pensava che Walter reagisse, altrimenti non l'avrebbe insultato. Oh, se avessi visto la faccia di Walter quando l'ha guardato, una mi ha fatto venire i brividi, ma erano brividi buoni. Sembrava Sir Galahad, il cavaliere di quel poema che papà ci ha letto sabato. Io comunque detesto l'idea che si picchino e vorrei poterli fermare, disse una. Oh, ormai devono farlo per forza, esclamò Faith. È una questione di onore. Non osare dirlo a nessuno, una. Se lo fai non ti rivelerò mai più un segreto. Non lo dirò a nessuno, acconsentì una, ma domani non resterò a vederli fare a botte, me ne torno subito a casa. Oh, va bene. Io però devo esserci, sarebbe brutto andarmene visto che Walter farà botte per me. Gli legherò i miei colori al braccio. È così che bisogna fare con il proprio cavaliere. Per fortuna la signora Blythe mi ha regalato quel bel nastro azzurro per il mio compleanno e l'ho strappato solo in due punti, perciò è quasi nuovo. Però mi piacerebbe proprio essere sicura che Walter vincerà. Se non lo facesse sarebbe così umiliante. Faith sarebbe stata ancora più dubbiosa se avesse potuto vedere il suo cavaliere in quel momento. Quando Walter era tornato a casa di scuola, la sua legittima rabbia era sbollita, lasciando il posto a una sensazione piuttosto spiacevole. Il giorno dopo doveva fare a botte con Dan Reese e non voleva farlo, detestava anche solo l'idea. Ma continuava a pensarci, non riusciva a togliere la mente neanche per un secondo. Si sarebbe fatto molto male, aveva una paura terribile di farsi male e sarebbe stato sconfitto e umiliato. A cena non riuscì a mangiare quasi niente. Susan aveva fatto una teglia dei suoi biscotti preferiti, quelli a forma di faccia di scimmia, ma lui riuscì a mandarne giù a malapena uno. Jem invece ne mangiò quattro e Walter si chiese come avesse fatto, come facevano gli altri a mangiare e a chiacchierare allegramente come stavano facendo. Ecco lì sua madre con gli occhi luminosi e le guance rosa. Non sapeva che suo figlio doveva fare a botte il giorno dopo. Sarebbe stata così allegra se l'avesse saputo, si chiese cupamente Walter. Jem aveva scattato una fotografia a Susan con la sua nuova macchina fotografica e il risultato passò di mano in mano tutto intorno al tavolo. Susan era terribilmente indignato. Non sono una bellezza, signora dottora cara, e lo so bene, l'ho sempre saputo, disse in tono severo, ma non credo proprio di essere brutta come sembro in quella fotografia. Oh no? Jem rise e Anna rise con lui. Per Walter fu insopportabile, si alzò e andò in camera sua. Quel bambino ha qualcosa per la testa, signora dottora, disse Susan. Non ha mangiato quasi niente. Dice che sta rimuginando un'altra delle sue poesie. In quel momento il povero Walter in realtà era lontanissimo dal regno fatato della poesia. Se ne stava con i gomiti appoggiati al davanzale della finestra aperta, la testa posata sulle mani. Vieni giù alla spiaggia, Walter, esclamò Jem entrando. Stasera bruciano l'erba sulle dune. Papà ha detto che possiamo andare. Vieni. In qualsiasi altro momento Walter sarebbe stato entusiasta. Adorava veder bruciare l'erba sulle dune. Ma quella sera si rifiutò di andare e non ci fu verso di smuoverlo. Jem, deluso, non aveva voglia di farsi la lunga camminata fino all'estremità della baia di Four Winds da solo, perciò si rifugiò in soffitta e si immerse nella lettura di un libro. Presto dimenticò ogni delusione e si perse nelle avventure degli eroi di un vecchio romanzo, fermandosi solo per immaginare se stesso nei panni di un famoso generale che conduceva le sue truppe alla vittoria in una grande battaglia. Walter rimase seduto davanti alla finestra fino all'ora di andare a dormire. Dee gli si accostò sperando di farsi dire cosa non andava, ma Walter non riuscì a parlarne nemmeno a lei. Parlarne ad alta voce avrebbe reso più reale quella prospettiva da cui lui rifuggiva. Era già una tortura pensarci. Le foglie rinsecchite e accartocciate frusciavano sugli aceri fuori dalla sua finestra. Lo scintillio rosa e infuocato era scomparso dalla volta argentea del cielo e la luna piena si era levata gloriosa sopra la valle dell'arcobaleno. In lontananza, il rossore di un falò dipingeva una gloriosa pagina sull'orizzonte, oltre le colline. Era una serata frizzante e limpida, in cui i suoni si sentivano distintamente anche da lontano. Una volpe guaiolava dall'altro lato dello stagno e una locomotiva sbuffava giù alla stazione di Glen. Nel macchione di aceri una ghiandaia azzurra gracchiava incessantemente e dal prato della canonica giungevano delle risate. Come faceva la gente a ridere? E come facevano le volpi e le ghiandaie e le locomotive a comportarsi come se il giorno dopo non dovesse accadere niente di straordinario? Oh, quanto vorrei che fosse già finita, brontolò Walter. Quella notte dormì molto poco e la mattina mandò giù la pappa d'avena con una certa difficoltà. Susan faceva porzioni davvero generose. Quel giorno il signor Hazard non fu per niente soddisfatto del suo allievo e anche di Faith Meredith, che sembrava avere la testa tra le nuvole. Dan Reese disegnava di nascosto sulla sua lavagnetta figure di ragazze con la testa di maiale o di gallo e le mostrava a tutta la classe. La notizia della battaglia imminente era trapelata e quando Dan e Walter si recarono alla Betaia dopo la scuola, furono accompagnati da quasi tutti i ragazzi e da molte ragazze. Una era andata a casa, ma Faith c'era e aveva legato il suo nastro azzurro intorno al braccio di Walter. Walter, dal canto suo, era contento che tra gli spettatori non ci fossero né Jem, né Dee, né Nan. Chissà come non avevano saputo cosa stava per accadere e se ne erano andati a casa. Walter fissò Dan impassibile. All'ultimo momento tutte le sue paure erano svanite, ma gli era rimasto il disgusto all'idea di fare a botte. Dan, bisogna dirlo, sotto le sue lentiggini era più pallido di Walter. Uno dei ragazzi più grandi diede il via e Dan sferrò subito un pugno in faccia a Walter. Lui barcollò per un istante, il dolore del colpo riecheggiò per tutta la sua corporatura esile, ma poi svanì e qualcosa che non aveva mai sperimentato prima si riversò su di lui come un'alluvione. Si fece tutto rosso in viso e una fiamma si accese nei suoi occhi. Gli allievi della scuola di Glen St. Mary non avrebbero mai immaginato di vedere la signorina Walter in quello stato. Si lanciò in avanti e saltò addosso a Dan come un gatto selvatico. Tra i ragazzi della scuola di Glen non c'erano particolari regole riguardo le risse. Ci si accapigliava, ognuno a suo modo, colpendo a destra e a manca. Walter lottò con furia e gioia selvagge contro le quali Dan non poté nulla. Finì tutto nel giro di poco. Walter non aveva piena consapevolezza di quel che stava facendo, finché tutto a un tratto la foschia rossa si diradò davanti ai suoi occhi e lui si ritrovò chino su Dan, sdraiato a terra e con il naso orrore che sanguinava. «Ne hai avute abbastanza?» gli chiese a denti stretti. Dan ammise controvoglia che era così. «E mia madre scrive balle?» «No.» «E Faith Meredith è una ragazza maiale?» «No.» «O una ragazza galletto?» «No, no.» Walter voleva chiedergli anche: tu sei un bugiardo? Ma il senso di compassione gli evitò di umiliare ulteriormente Dan, e poi tutto quel sangue era orribile. Allora puoi andare, disse sprezzante. I ragazzi, appollaiati sulla staccionata, applaudirono. Alcune delle ragazze invece scoppiarono a piangere spaventate. Non era la prima risa a cui assistevano, ma non avevano mai visto nessuno lottare come Walter aveva fatto con Dan. Adesso che era tutto finito, singhiozzavano isteriche, tutte tranne Faith, che era ancora in tensione e con le guance rosse. Walter non rimase a prendersi gli onori della vittoria. Saltò la staccionata e corse giù per la Betaia fino alla valle dell'arcobaleno. Non provava alcuna gioia per aver vinto, solo la tranquilla soddisfazione per aver fatto il suo dovere e aver vendicato l'onore, misto a un senso di nausea e disgusto al pensiero del naso insanguinato di Dan. Era stato così brutto e Walter detestava le cose brutte. Solo in quel momento realizzò di essere anche lui dolorante e malconcio. Aveva un labbro gonfio e tagliato e una strana sensazione a un occhio. Nella valle dell'arcobaleno incontrò il signor Meredith, che stava tornando a casa dopo una visita pomeridiana alle signorine West. Il reverendo gentiluomo lo guardò con aria severa. Mi sembra di capire che tu abbia fatto a botte, Walter. Sì, signore, rispose lui, aspettandosi una sgridata. E perché? Dan Reese aveva detto che mia madre scrive balle e che Faith è una ragazza maiale, rispose Walter schiettamente. Oh, allora avevi una buona ragione, Walter. Lei pensa che fare a botte sia giusto, signore? Chiese lui curioso. Non sempre e non spesso, ma a volte sì, a volte sì, disse John Meredith. Per esempio, quando qualcuno insulta una donna, come nel tuo caso. Il mio motto, Walter, è non fare a botte finché non sei assolutamente sicuro che sia necessario, ma in quel caso mettici tutto te stesso. Nonostante i lividi, mi pare di capire che ne sei uscito vincitore. Ah sì, gli ho fatto rimangiare tutto. Molto bene davvero. Non pensavo che fossi un guerriero, Walter. Beh, non avevo mai fatto a botte prima d'ora e non volevo farlo fino all'ultimo, ma poi, disse Walter, deciso a liberarsi la coscienza, mentre lo facevo mi è piaciuto. Il reverendo John gli fece l'occhiolino. All'inizio era un po' spaventato. Un sacco, rispose Walter con sincerità, ma non lo sarò più. Spaventarsi per qualcosa a volte è peggio del qualcosa che devi affrontare. Domani chiederò a papà di portarmi a Low Bridge a togliermi il dente. Giusto, di nuovo, la paura causa più sofferenza della sofferenza di cui si ha paura. Lo sai chi l'ha scritto, Walter? Shakespeare. Non c'è emozione o esperienza del cuore umano di cui quell'uomo incredibile non abbia scritto. Quando vai a casa, di' a tua madre che sono fiero di te. Walter non glielo disse, ma le raccontò tutto il resto e lei lo comprese. Gli disse che era felice che si fosse battuto per lei e Faith. Poi gli spalmò dell'unguento sui lividi e gli spruzzò dell'acqua di colonia per rinfrescargli la testa. Le mamme sono tutte gentili come te, chiese Walter abbracciandola. Per te vale la pena battersi. La signorina Cornelia e Susan erano in salotto quando Anna scese al piano di sotto e ascoltarono tutta la storia con grande divertimento. Susan in particolare fu molto compiaciuta. Oh, sono felice di sentire che si è fatto una bella rissa, signora dottora cara. Forse gli toglierà dalla testa tutte quelle sciocchezze poetiche. Non ho mai potuto soffrire quella piccola vipera di Dan Reese, proprio mai. Perché non si siede più vicino al fuoco, signor Elliot? Queste serate di novembre sono gelide. Grazie Susan, non ho freddo. Sono passata la canonica prima di venire qui e mi sono riscaldata, anche se per farlo sono dovuta andare in cucina perché in quella casa non c'è un fuoco da nessuna parte e quella cucina era completamente sottosopra, credete a me. Il signor Meredith non era a casa e non sono riuscita a scoprire dove fosse, ma secondo me era dalle West. Lo sai, Anna cara, pare che ci sia andato regolarmente per tutto l'autunno e la gente comincia a pensare che lo faccia per vedere Rosemary. Oh, se sposasse Rosemary avrebbe una splendida moglie, disse Anna, aggiungendo legna al fuoco. È una delle ragazze più gentili che io abbia mai conosciuto, della stirpe di quelli che hanno conosciuto Giuseppe. Sì, a parte il fatto che è episcopale, disse la signorina Cornelia dubbiosa. Sempre meglio che essere metodisti, ma continuo a pensare che il signor Meredith si possa trovare una brava moglie nella sua parrocchia. Comunque, probabilmente non c'è niente di vero in queste voci. Solo un mese fa gli ho detto, dovrebbe risposarsi, signor Meredith. E lui mi ha guardata come se avessi detto qualcosa di assolutamente inappropriato. Mia moglie riposa in pace, signor Elliot, mi ha detto con quei suoi modi gentili, davvero santo. Direi proprio di sì, gli ho risposto io, altrimenti non le avrei consigliato di risposarsi. E a quel punto, lui ha fatto una faccia ancora più sbalordita. Per questo dubito che ci sia qualcosa di vero in questa storia di Rosemary. Il punto è che se un pastore va due volte a far visita in una casa in cui c'è una donna non sposata, tutti dicono subito che le sta facendo la corte. Se posso dire la mia, mi pare che il signor Meredith sia troppo timido per corteggiare una seconda moglie, disse Susan solennemente. Non è affatto timido, credete a me, rispose la signorina Cornelia. Distratto, sì, ma timido proprio no. E per quanto sia sbadato e trasognato, ha un'alta opinione di se stesso, come è tipico degli uomini. Perciò, quando è sveglio, non credo abbia difficoltà a chiedere a una donna di sposarlo. No, il problema è che si illude di aver sepolto il suo cuore, mentre invece gli batte ancora nel petto, come a tutti noi. Potrebbe aver notato Rosemary West, oppure no, ma se è così dobbiamo approfittarne. È una ragazza dolce, un'ottima casalinga e sarebbe una brava madre per quei poveri bambini trascurati. E poi, concluse la signorina Cornelia rassegnata, in fondo anche mia nonna era episcopale. Mary porta tempesta. Mary Vance, spedita dalla signora Elliot a fare una commissione alla canonica, Stava attraversando la valle dell'arcobaleno, diretta a Ingleside, dove avrebbe passato il pomeriggio con Nan e Dee come premio del sabato. Nan e Dee erano andate a raccogliere la resina degli abeti con Faith e Una nei boschi vicino alla canonica, e tutte e quattro ora erano sedute sul tronco caduto di un pino accanto al ruscello a masticare vigorosamente. Le gemelle di Ingleside avevano il permesso di masticare la resina di abete solo nella valle dell'arcobaleno, mentre Faith e Una non seguivano le stesse regole di etichetta e la masticavano allegramente dove volevano, a casa e fuori, facendo inorridire tutta Glen. Un giorno Faith se l'era portata persino in chiesa. Ma Jerry si era reso conto della gravità della situazione e le aveva dato una tale lavata di capo da fratello maggiore che lei non l'aveva fatto più. Avevo così tanta fame che dovevo per forza masticare qualcosa, protestò. Sai benissimo che cosa c'era per colazione, Jerry Meredith. Non ce la faccio a mangiare la pappa d'avena bruciata e sentivo lo stomaco così strano e vuoto. La resina mi ha aiutato un sacco. E comunque stavo masticando piano, non facevo per niente rumore e non l'ho nemmeno fatta scoppiare. In ogni caso non sta bene masticare la resina in chiesa, insiste Jerry, che non ti veda mai più. Ma tu la masticavi la settimana scorsa al raduno di preghiera, esclamò Faith. È una cosa diversa, disse Jerry altezzoso. Il raduno di preghiera non è di domenica. E poi ero seduto in fondo dove era tutto buio e non mi vedeva nessuno. Tu invece eri proprio davanti, sotto gli occhi di tutti. E quando abbiamo cantato l'ultimo inno, mi sono tolto la resina di bocca e l'ho attaccata al banco di fronte al mio. Quando ce ne siamo andati, però, me la sono dimenticata. Sono tornato a riprenderla il giorno dopo, ma non c'era più. Immagino che Rod Warren l'abbia buttata, era proprio buona da masticare. A quel punto Mary Vance fece il suo ingresso nella valle a testa alta. Indossava un cappuccio nuovo di velluto azzurro con delle roselline scarlatte, un cappottino blu e un manicotto di pelo di scoiattolo. Era molto consapevole dei suoi vestiti nuovi e molto compiaciuta di se stessa. I capelli erano sapientemente arricciati, il viso si era fatto pieno, le guance rosa e gli occhi bianchi splendevano. Non assomigliava per niente all'orfana disperata e vestita di stracci che i Meredith avevano trovato nel vecchio fienile dei Taylor. Una cercò di non provare invidia. Mary aveva un cappuccio di velluto nuovo. Lei e Faith, invece, quell'inverno avrebbero indossato i loro vecchi berretti scozzesi grigi. Nessuno pensava mai di comprargliene di nuovi. E loro avevano timore a chiederli a loro padre per paura che non avesse i soldi e si sentisse in colpa per questo. Proprio Mary una volta aveva detto loro che i pastori non avevano mai abbastanza soldi e facevano sempre fatica a far quadrare i conti. Da allora Faith e Una avevano deciso che preferivano andare in giro vestite di stracci piuttosto che chiedere qualcosa al padre. Non importava loro granché di essere così trasandate, però vedere Mary Vance vestita di tutto punto e che si dava persino delle arie era dura da sopportare. L'ultima goccia fu il manicotto di scoiattolo. Né Faith né Una ne avevano mai avuto uno. Erano semmai fortunate ad avere delle mufole senza buchi. La zia Marta proprio non li vedeva e i tentativi di rammendo di Una erano abbastanza penosi. Per questo non riuscirono a salutare Mary in maniera troppo entusiasta, ma lei non ci badò o non lo notò affatto. Non era una persona particolarmente sensibile. Prese agilmente posto sul tronco di pino, appoggiando il manicotto della discordia su un ramo. Una notò che era foderato di satin rosso increspato e aveva delle nappe rosse. Poi abbassò lo sguardo sulle proprie mani, viola e screpolate, e si chiese se avrebbe mai avuto occasione di infilarle in un manicotto del genere. «Date anche a me qualcosa da masticare», disse Mary allegra. Nandy e Faith tirarono fuori di tasca un paio di grumi di resina color ambra e li passarono a Mary. Una rimase in silenzio. Nella tasca della sua giacchetta sfilacciata, che ormai le stava stretta, aveva quattro bei grumi, ma non aveva intenzione di regalarne neanche uno a Mary Vance. Figuriamoci poi di farglielo scegliere. Mary poteva andare a cercarsi la resina da sola. Solo perché aveva un manicotto di scoiattolo? Beh, non poteva mica aspettarsi di avere tutto quello che voleva. Che bella giornata, vero? Disse Mary dondolando le gambe, forse per mettere in mostra i suoi stivaletti nuovi, con uno splendido rivestimento di stoffa. Una invece ritirò indietro i piedi. Uno dei suoi stivaletti aveva un buco sul davanti ed entrambi avevano le stringhe malconce. Ma erano i migliori che aveva. Oh, quella Mary Vance! Ma perché non l'avevano lasciata nel fienile? A Una Non dava fastidio che le gemelle di Ingleside si vestissero meglio di lei e Faith, perché loro indossavano i loro abiti con una grazia spensierata e non sembravano badarci più di tanto. In qualche modo riuscivano a non far sentire gli altri trasandati e laceri, ma quando Mary Vance si vestiva elegante, sembrava quasi trasudare l'eleganza dei suoi abiti. Ovunque passasse, i vestiti diventavano la cosa più importante e nessuno riusciva a pensare ad altro. Seduta sul tronco di pino in quel grazioso tramonto color miele di dicembre, una sentiva una consapevolezza acuta e miserevole di quel che indossava. Il berretto scolorito, che era pur sempre il migliore che aveva, la giacchetta striminzita che portava ormai da 3 inverni, i buchi nella gonna e negli stivaletti, l'inadeguatezza della sua povera biancheria intima. Ovviamente Mary era vestita così perché era in visita e lei no, ma anche se lo fosse stata non avrebbe avuto molto di meglio da mettersi e questo le bruciava. Che buona questa resina, sentite come scoppietta. Giù a Four Winds non ci sono abeti resinosi, disse Mary. A volte mi viene proprio voglia di masticare qualcosa, anche se la signora Elliot me lo proibirebbe se mi vedesse. Dice che non è da signora. Questa faccenda della signora mi confonde un po', ancora non ho capito come funziona. Una. Ma che hai? Il gatto ti ha mangiato la lingua? No, disse una, che non riusciva a distogliere gli occhi dal manicotto di scoiattolo. Mary si chinò in avanti, lo prese e glielo mise in mano. Infila le zampette qua dentro per un po', le ordinò. Hanno l'aria malconcia. Bello il manicotto, vero? La signora Elliot me l'ha regalato la settimana scorsa per il compleanno e a Natale mi regalerà un colletto. L'ho sentito mentre lo diceva signora Elliot. La signora Elliot è molto buona con te, disse Faith. Ci puoi scommettere, ma anche io sono buona con lei, rispose Mary. Lavoro come una schiava per renderle le cose più semplici e per fare tutto come dice lei. Ah, siamo fatte l'una per l'altra. Non tutti saprebbero andare d'accordo con lei, come faccio io. Ci tiene da morire all'ordine, ma anche io. Perciò ci intendiamo bene. Te l'avevo detto che non ti avrebbe mai picchiata. Sì, è vero. Non ha mai neanche provato ad alzare un dito su di me, e io non le ho mai detto una bugia che sia una, quant'è vero che sono viva. A volte mi sgrida per bene, ma le parole mi scivolano addosso come acqua sul dorso di un'anatra. Una, ma perché non usi il manicotto? Una l'aveva riappeso al ramo. Non ho le mani fredde, grazie, disse in tono sostenuto. Beh, se a te va bene così, va bene anche per me. Sapete che la vecchia Kitty Hale che è tornata in chiesa? Umile come Mosè. E nessuno sa per quale motivo. Tutti invece sanno che è stata Faith a riportarci Norman Douglas. La sua governante dice che sei andata a casa sua e gliene hai cantate 4, è vero? Sono andata a chiedergli di tornare in chiesa, disse Faith a disagio. Che fegato che hai avuto, disse Mary ammirata. Io non avrei osato e non sono certo una codarda. La signora Wilson dice che vi siete detti delle cose scandalose, ma che alla fine tu hai avuto la meglio e lui ha cambiato idea completamente e ti ha adorata. Senti, domani la dice tuo padre la messa? No. Domani fa cambio con il signor Perry di Charlottetown. Papà è andato in città questa mattina e il signor Perry arriverà stasera. Immaginavo che ci fosse qualcosa nell'aria, anche se la vecchia Marta non ha voluto dirmi niente, ma ero certa che non avrebbe tirato il collo al galletto per niente. Quale galletto? Che vuoi dire? Esclamò Faith facendosi pallida. Non lo so che galletto fosse, non l'ho visto, ma quando è venuta a prendere il burro che le aveva mandato la signora Elliot. Ha detto che era stata nel fienile a uccidere il galletto per la cena di domani. Faith balzò in piedi. E Adam? Non abbiamo altri galli in casa. Ha ucciso Adam. Non ti infuriare. Marta ha detto che il macellaio di Glenn non aveva carne questa settimana. E lei doveva pur mettere qualcosa in tavola. Le galline stavano tutte covando. E poi erano troppo misere. Oh, se ha ucciso Adam! Faith si avviò di corsa su per la collina. Mary alzò le spalle. Oh, diventerà pazza adesso. Adam le piaceva così tanto, ma sarebbe dovuto finire in pentola tanto tempo fa. Adesso sarà duro come il cuoio. In ogni caso non vorrei essere nei panni di zia Marta. Faith era livida di rabbia. Una, forse faresti meglio correrle dietro per calmarla. Mary si avviò verso casa insieme alle ragazze Blythe e dopo pochi passi una si voltò e le corse dietro. Tieni, ho un po' di resina per te, Mary. Disse in tono pentito, mettendo in mano a Mary tutti e quattro i grumi che aveva. Sono contenta che tu abbia un manicotto così bello. Beh, grazie, disse Mary, colta alla sprovvista. Poi, dopo che una se ne fu andata, si rivolse alle ragazze Blythe. Che strana creaturina. Ma l'ho sempre detto che ha un cuore d'oro.